Buonasera Chiesa, chi è contento che abbiamo due pastori ora? Eh? Devo dire che c'è qualcosa che li accomuna oltre ai capelli bianchi e il cognome, no? Me l'ero studiato, pastore Mirko. Che bello che abbiamo un nuovo pastore. Dobbiamo fare un applauso vero al nostro nuovo pastore. Eh? Bellissimo. Bellissimo che abbiamo nuovo vigore, è una persona che Dio ha scelto per portarci in una nuova fase. Chiesa, sei pronta per una nuova fase? Sì o no? Sì. Sei qui venuto per piangere il morto o sei venuto per gioire e glorificare Dio? Oh, mi vedo preparati stasera. Chi ha detto sono venuto per piangere il morto? Nessuno, nessuno, grazie a Dio nessuno, perché se siamo qui come chiesa non è per glorificare un morto, ma per glorificare un Dio che è vivo. Amen? Ti piace? Abbiamo un Dio vivo, abbiamo una famiglia fantastica, guardati attorno, abbiamo una famiglia fantastica, abbiamo un nuovo pastore, abbiamo una nuova fase di chiesa pronta per essere, per andarci dentro, no? Per essere catapultati. E io voglio essere pronto. Chi con me? Io voglio essere pronto. Io voglio essere pronto. Mi piace, mi piace. Stasera è anche il compleanno di Lidia Petrelli. Facciamo tanti auguri a Lidia, che è parte della nostra famiglia. Che bello, che bello. Oggi voglio parlarvi di un qualcosa che Dio mi ha dato già da condividere negli Upside Down un paio di settimane fa, ma in realtà ho sentito forte che era molto importante anche per noi come Chiesa, insieme di viverlo. Ed è un solo verso della parola di Dio che è completamente speciale, attrezzata e utile per cambiarci, no? Un solo verso mi sta rovinando la mente, mi sta triturando i pensieri e sta cominciando a portare una nuova mentalità nella mia testa. Ed è questo, leggiamoli insieme, in Atti. Atti al capitolo 1, dal verso 9 al verso 11, lo leggeremo anche sullo schermo. Atti è un libro stupendo, vero? Io sto facendo un piano di lettura su Atti, che mi fa leggere tutto Atti in 15 giorni, ed è straordinario perché leggi, rileggi, poi lo prendi, lo rileggi, lo rivedi. Atti è uno dei libri più belli della Bibbia, sai perché? Perché ti motiva nelle cose nuove. Se stai per vivere una fase nuova della tua vita, leggi Atti. Atti è, come dire, lo start, poi vedremo anche una foto. Ora cominciamo a leggere il verso. Dette queste cose, mentre essi guardavano, fu elevato e una nuvola, accogliendolo, lo sottrasse ai loro sguardi. E come essi avevano gli occhi fissi al cielo, mentre egli se ne andava, due uomini in vesti bianche si presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare verso il cielo? Perché state a guardare verso il cielo?» E continuano dicendo: «Questo Gesù che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo». Non è straordinario? Vi racconto un po' il contesto. Gesù è stato 3 anni con 12 uomini strani. Io direi pazzi, deboli, orgogliosi, ribelli, assurdi. Tu sei un po' meglio forse, io sono un po' meglio, no? Quando leggo di Pietro dico: ma Signore, meno male che mi hai fatto meglio di lui, che non c'ho la spada e taglio l'orecchio della guardia. Questi uomini sono stati 3 anni con il nostro Salvatore, sono rimasti con lui giorno e notte. Gesù a questi pazzi, deboli, inutili persone della società, che non hanno fatto niente di così importante, però sono stati 3 anni interi, giorno e notte, con Gesù. Questo Gesù gli ha fatto vedere tutte le cose del suo regno. Gli ha insegnato a guarire, gli ha insegnato a fare miracoli, gli ha insegnato a scacciare demoni, gli ha insegnato a far risorgere le persone, gli ha insegnato a predicare, gli ha insegnato a leggere le scritture e a vederle come una cosa che poteva essere reale. Questo Gesù è rimasto con loro 3 anni. Poi, come la scrittura aveva profetizzato su di lui e come per tutti noi è stata gloria di Dio, è morto. Ed è morto sulla croce, portando tutte le nostre malattie, tutti i nostri peccati, tutte le nostre maledizioni, tutto il nostro passato, tutte le nostre sciagure, tutte le cose peggiori per cui noi avremmo dovuto pagare, Gesù li ha pagate per noi sulla croce morendo. Ma non è solamente morto. Satana pensava che Gesù fosse morto. Invece Gesù dopo 3 giorni è risorto. E questo lo fa essere l'unico vero Dio, al di sopra di ogni altro, l'unico che sconfigge la morte. Non avrebbe potuto sconfiggere la morte se non attraverso la sua resurrezione. Gesù era morto e i discepoli si sono ritirati, hanno detto: mamma mia, io credevo in questo leader, e ora non ho più una casa, non ho più una suocera, anzi no, quella è risorta, è stata guarita, quindi ce l'aveva ancora, doveva tornare la sua suocera. E chi aveva una casa è tornato lì, e chi pescava è tornato a pescare. Ha detto: mamma mia, mamò, 3 anni di vita passata da estremi, e poi Gesù muore. Così Gesù che cosa fa? Gesù risorge, incredibile. E sapete cosa fa? Va da loro e si fa vedere di nuovo. E resta con loro altri 40 giorni. Li istruisce, gli dice: ragazzi, tutto quello che avete visto, vai, ora è il momento. Abbiamo qui, in questa fase, che Gesù dice il grande mandato che troviamo in Matteo 28, no? Com'è? Ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla terra, e poi continuiamo insieme. Andate dunque e fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro tutte le cose che io vi ho comandato. Ecco, io sono con voi fino alla fine dell'età presente. Amen. Lo stesso grande mandato, Gesù lo dice in Luca, lo ritroviamo anche in Luca. E anzi, Luca 24, che è l'ultimo capitolo del Vangelo di Luca, parla esattamente della stessa cosa che noi troviamo in Atti 1, perché Luca ha scritto il Vangelo di Luca e anche gli Atti. Quindi sta dicendo la stessa cosa contemporaneamente. Mi fa ridere, perché Luca, essendo un medico, no, lui l'ha scritta in maniera seria. Però vi spiego a parole mie quello che Luca 24 dice. Gesù sta con loro, è risorto, loro se la stavano facendo sotto, perché ora toccava a loro. Gesù gli ha detto: bene, belli, perché sicuramente li ha chiamati anche belli, no? Li ha chiamati belli e ha detto: ragazzi, vi ricordate le cose che avete visto da me? Vi ricordate quando andavo a scacciare i demoni, a guarire, a predicare? Ora, fallo tu, tocca a voi. E non rimarrete solo qui a Gerusalemme, non rimarrete solamente in tutta la Giudea, ma andrete anche in Samaria e fino all'estremità della terra. Però, io mi immagino loro: veramente? Come facciamo? Tu te ne vai, Gesù? Ma 3 anni l'abbiamo fatto con te, ma te ne vai? Gesù dice: ragazzi, non preoccupatevi, se vi lascio da soli fate danni. Allora vi do lo Spirito Santo, okay, che vi guida, io non ci sto. A me sembra che così, no? A quanti sembra un po' così? Che Gesù a un certo punto ha detto: questi, se li lascio da soli, fanno un sacco di caos. Allora è meglio che gli do lo Spirito Santo, il Consolatore. Ecco, lui vi guiderà in tutte le cose che dovrete fare. E in Atti 1, troviamo in Atti 1:8, che Gesù dice: ecco, e voi mi sarete testimoni quando riceverete potenza, lo Spirito Santo sarà su di voi e voi riceverete potenza e tutto il resto. Quindi che cosa fa Gesù? Li ha equipaggiati, ha fatto per loro un esempio, morendo per tutti quanti noi, li ha chiamati, gli ha detto: ok, ora andate e fate voi. Però aspettate, non muovetevi fino a quando lo Spirito Santo non viene, non arriva. Voi non fate niente, rimanete solo insieme, rimanete a pregare. E se n'è andato. In questo momento Salvatore dovrebbe tirarmi sopra. No, non è vero, sto scherzando, però sarebbe stato bello, vero? Facciamo così, se ne va. Bello, eh? Dobbiamo, pastore, posso la prossima volta predico così. Salvatore, mi devi creare un gancio per andarmene. E questi uomini che vedono Gesù, che mentre sta parlando se ne va, continuano così. Sapete la faccia proprio intelligente, no? Di quelli che stanno così. E così Gesù manda degli angeli in tute bianche, va, andate a quelli là, e gli angeli arrivano e gli dicono: ma che state a guardare? Ma perché state rimanendo a guardare? Ma perché perdete tempo a guardare? Ma voi ve li immaginate, no? A me capita spesso di immedesimarmi. Cioè io vedo una persona tirata in cielo, è chiaro che rimane a guardare, no? pure io. Così. E poi arriva qualcuno che dice, beh, ragazzi, basta guardare, ora è il momento di fare quello che vi ha detto. E così i discepoli se ne vanno, vanno nella sala di sopra del Tempio, stanno insieme nella sinagoga, pregano, poi chiaramente la storia la sappiamo, anzi facevamo ridere, no? Perché dice, ma siamo in 11, Giuda si è andato, ok, però dobbiamo essere forse ad 12, quindi mi tiriamo a tocco e vai. Comunque, queste sono altre storie, simpatica la Bibbia anche. Lo Spirito Santo è la potenza di Dio perché Dio ci faccia fare quello che Lui ci ha chiamato a fare. Lo dico di nuovo, Dio ci ha chiamato a fare, Dio ci ha mandato a fare quello che Lui ha fatto sulla terra per 3 anni, ma non ci lascia soli. Lui ci chiede di fare nella potenza sua. Noi da noi stessi non possiamo fare niente. È nella potenza dello Spirito Santo che noi possiamo continuare a scrivere questo libro fantastico e a fare le stesse cose che ha fatto Gesù, anzi la Bibbia dice di più grandi. E così i discepoli intelligentemente cosa fanno? Stanno a guardare. Che bravi! Yeah! Fantastici! E a un certo punto Gesù manda qualcuno e dice, ragazzi, basta guardare. Lo stesso Gesù che avete visto andare in cielo tornerà. E lo vedrete tornare nella stessa, lo stesso Gesù tornerà. Chiesa, noi sappiamo che stiamo vivendo nella fase in cui stiamo aspettando che Gesù torni? Sì o no? Noi stiamo vivendo in una fase di attesa. La Chiesa è esattamente l'esecutrice dell'attesa. La Chiesa è destinata allo scopo di portare a termine il piano di Dio in attesa che Lui ritorni. Cioè la Chiesa deve fare tutto quello che serve perché ogni creatura su questa faccia della terra, in ogni epoca passata, in ogni epoca futura, conosca che Gesù è il Salvatore del mondo. Ci credi? Cioè tu sei la persona che Dio ha scelto per continuare la sua opera prima che Lui torni. Allora sapete che cosa hanno fatto i discepoli? Hanno aspettato, hanno ricevuto lo Spirito Santo e poi a un certo punto Pietro, posso dire una parola un po' così, quello sfigato di pescatore, si è alzato in piedi, per niente letterato, per niente saggio, ha predicato un messaggio semplicissimo. Qualcuno ha detto che Pietro, la predicazione che noi leggiamo, è di 7 minuti e mezzo. 7 minuti e mezzo, un uomo illetterato, sfigatissimo pescatore, predica e 3.000 persone si convertono. E poi altre 2.000, e poi altre 5.000. E allora lì veramente i discepoli dicono, oh, e allora è vero, allora veramente dobbiamo aspettare, allora muoviamoci, yeah! Andiamo in Samaria, andiamo in Giudea, andiamo fino alle solite, perché? Perché Gesù può tornare da un momento all'altro, vai Pietro! Pietro stava sul terrazzo, ha una visione di un uomo che deve parlare, che non conosce, che non fa parte del popolo dei giudei, che si chiama Cornelio, un italiano, gentile, peccatore, e Dio gli dice vai, e Cornelio, e Pietro va, e poi va, e lo Spirito Santo cosa fa? Tocca Paolo, che era Saulo, e diventa Paolo, era cieco e poi ci vede, poi cosa fa? Comincia a predicare, poi rimane 13 anni, poi insieme, ragazzi cosa facciamo? Si incontrano, Atti 13, la conferenza di Gerusalemme, si incontrano e dicono, come facciamo a predicare a tutto il mondo? E decidono. Allora, Pietro, tu e tutti gli altri predicano ai giudei. Paolo, tu e qualcun altro vai ai gentili. Ok, andiamo. Andiamo in Turchia. E poi andiamo in Grecia. Ma io voglio andare a Roma. Andiamo a Roma. No, non puoi andare a Roma, a Malta. Andiamo a Malta. E poi io voglio andare in Spagna. Perché quella è l'estremità della terra. E allora proviamo ad andare in Spagna. No, a Roma muori. Gesù ha deciso così. Ok, perfetto. Paolo, Sila, Barnaba, Pietro, Giacomo che morì subito dopo, Tommaso. La storia, non la Bibbia, la storia, racconta che Tommaso, quello che voleva toccare Gesù, è arrivato fino in India. Perché avevano questa rivelazione, quel Gesù che vi è stato tolto. Sta per tornare e allora muoviti perché Gesù può tornare da un momento all'altro. È come quando mio marito se ne va di casa e dice prepara il pranzo veloce, metti insieme le cose perché sai che sta per tornare. E noi chiesa ce l'abbiamo questa fretta. Stiamo predicando ai nostri vicini di casa perché domani mattina Gesù può tornare. Come fa la mia amica? Come fa il mio collega? Come fa mia cugina? Come fa mia nonna? Come fa il padrone di casa mia? Come fa quello che ha il negozio vicino casa? Come fa? Allora fammi andare. Chiesa, tutta la Bibbia, dagli Atti in poi, è costruita su una fretta soprannaturale. Perché? Perché quelli che avevano visto Gesù andarsene sapevano che sarebbe ritornato. E siccome non lo sai quando torna, allora ti muovi. Vi ricordate la parabola delle 10 vergini? Alcune erano con l'olio, altre no, non erano preparate. Perché? Perché alcuni non si aspettano che Gesù veramente tornerà. Perché non l'hai visto andartene. E quindi pensi che forse non tornerà. Perché se noi vivessimo in questa fretta, è sicuro che non staremmo seduti qui. Non staremmo seduti qui. O forse staremmo qui un quarto d'ora. Il tempo di pregare, di mangiare, poi via, veloce, fuori. Perché? Perché ci sono persone da salvare, Gesù può tornare. Chiesa, che cosa ci ha tolto questa fretta? Che cosa ci ha tolto questa fretta? Perché non stiamo vivendo più questa santa fretta? Perché pensiamo che Gesù tornerà tra 2000 anni? Perché è da 2000 anni che se n'è andato e forse tornerà tra 2000 anni. La Bibbia dice però, non è dato a voi sapere i tempi. Fatevi i fatti vostri. Voi fate quello che dovete fare. Predicare con fretta. Allora andiamo in Uzbekistan. Non c'è nessuno, vado io. E allora vado a Bitetto. A Bitetto c'è il beato Giacomo, vado io fuori. E a Bitritto non c'è niente, vado io. Sapete quanti paesi nella provincia di Bari non hanno nessuna chiesa? Tantissimi. Sapete a Mola quante chiese evangeliche ci sono? Una con 4 persone. Sapete a Torramare quante chiese evangeliche ci sono? A Bitritto, a Conversano, a Polignano. Sapete quanti paesi nella provincia di Lecce non hanno nessuna chiesa? Sapete quante persone nella provincia di Taranto non conoscono Gesù? Sapete quante persone in Libia non conoscono Gesù? Quante persone in Tunisia? Quante persone in Albania, quanta gente non conosce ancora Gesù. E noi stiamo qui a giocare a calcio, perché corri solo quando vai a giocare a calcio a fare footing, ma non corri perché? Perché lo credi. Non corri per questo. Io corro per fare footing, ma non per predicare l'Evangelo. E chiesa, io voglio cominciare a correre di una fretta santa che mi fa vedere le persone per strada, non mi fa pensare, ma guarda questi. No, fammi andare, perché se non vado io Gesù non può tornare. Assurdo. Sapete perché? Perché molto spesso non viviamo, che fiatone questa predica. Devo mettermi scarpe da ginnastica, un Gatorade, una cosa. Non vengo a correre martedì, ho già corso troppo qua. Sapete perché noi come chiesa a volte ci dimentichiamo di andare di fretta? Perché noi crediamo in un Gesù che è morto. Sara, io lo so che Gesù è morto. No, tu stai vivendo ancora con un Gesù morto. La nostra cultura ci dice che il nostro Gesù è appeso ad un legno. La cultura italiana ci convince che quel Gesù è rimasto su quel legno. Dappertutto vedi Gesù su un legno appeso. La realtà è che Gesù è sceso da quel legno. E per quello noi abbiamo una vittoria, perché lui ha vinto sulla morte. Amen? Ti piace questo? A me piace un sacco, però ci piace vivere con un Gesù morto. Sapete come la nostra cultura vive con i morti? La nostra cultura è un po' necromante. No, la cultura cattolica ti dice, adora i santi, perché? Ma sono morti. Ah, pregali, sono morti, è necromanzia. E con i defunti che cosa fai? Parliamo con i morti, no? E quindi, però voglio farvi vedere 4 cose che in particolar modo come italiani noi siamo abituati a vivere con i morti e chiedo al mio intero staff, 24.000 persone, la mia squadra bellissima di attivarsi, grazie ragazzi. La prima cosa che noi facciamo, lui è Gianni, è sposato, questo è Mario, è già da sposare, lui è Michele, è sposato mio cognato. Sono belli, vero? Beh ragazzi, tutti sposati, niente. Però se sei singolo, il Signore provvederà comunque per te, non preoccuparti, come Dio ha provveduto per loro. Amen. La nostra cultura per i morti è strana. Quanti di noi hanno un comò? No, non voglio che alziamo le mani, perché potrebbe essere brutto. Però quanti di noi hanno un comò con le foto delle persone morte? Ok, questi non sono persone morte, sono tutte vive. Io e mio marito, Letizia, Antonio, Gio... Caduto tutto. Gianluca e Carli. Sono tutti vivi, ragazzi, tutti vivi. No, non ti preoccupare, mica, non ti preoccupare. Sapete che cosa facciamo con le foto? Sapete cosa facciamo con le foto? Oh, che bello mio marito. Quando vive, mio marito è in vita, ok. Però che cosa facciamo con i morti? Oh, era bella la vita quando c'era. Che bei ricordi. Allora, era bello, sì. Ti sei dimenticato di tutte le cose brutte che sono successe, perché succedono, no? E noi facciamo la stessa cosa così con Dio. Noi facciamo di Lui una figurina. Morta. Che bello Gesù, bellissimo, sapete, ha guarito, ha salvato, che bello Gesù, bellissimo, la Bibbia, belle cose, bello, no? È un bel libro questo, veramente bello. E facciamo in modo che la Bibbia diventi e resti un libro dei ricordi. Questa qui non è un libro dei ricordi, questo è un libro vivo. Questo Gesù che noi adoriamo, che noi proclamiamo, che noi glorifichiamo, non è un Gesù che vuole rimanere sul nostro comò come una figurina morta. È un Gesù che ancora oggi vuole fare qualcosa con te. Non è qualcuno che è rimasto lì, ma è qualcuno che oggi ha intenzione di vivere una vita con te, di farti avere una relazione con Lui, di farti essere intimo con Lui, di darti guarigione, di darti libertà. E noi stiamo vivendo con un Gesù morto che ha fatto una volta una cosa per sempre, la croce, stop. Quando facciamo così, continuiamo ad avere una relazione con un Gesù a metà. Perché Gesù non è solo morto, ma è risorto. Amen? Non smettiamola di vivere una relazione con un Gesù morto fatto solo di ricordi. Sara, quando ero giovane facevo delle bellissime evangelizzazioni. E perché ora è finito? Tutte le persone che conosci sono credenti? Ho capito, gloria a Dio se è così. Ma i tuoi vicini sono credenti e quelli che ti passano davanti sono credenti. Quando ero giovane facevamo un'evangelizzazione per strada con la chitarra. Vabbè, hai smesso di suonare la chitarra, ma puoi fare comunque un'evangelizzazione. Chiesa, non viviamo nei ricordi. Basta vivere nei ricordi delle cose belle passate. Noi come Chiesa possiamo glorificare Dio perché in ogni fase della nostra Chiesa abbiamo avuto delle cose incredibili. Come Upside Down, noi siamo a 13 anni ormai. Sapete quante cose forti ed incredibili abbiamo fatto? Tantissime. Ma se continuiamo a vivere in quei ricordi, non faremo mai più niente. Se come Chiesa ci ricordiamo anche semplicemente che Natale è stato incredibile, il musical è stato incredibile, è un ricordo, allora smettiamo di guardare avanti. Guardare indietro ci deve servire solamente per glorificare Dio della sua fedeltà, ma poi dobbiamo continuare a guardare avanti perché questo Dio c'è ancora e vuole fare ancora delle cose. La seconda cosa che noi viviamo come italiani proprio nei confronti dei morti è il parlare con i morti. I medium, le cartomanti, la lettura della mano. Sì, sta succedendo qualcosa. Vi assicuro che non ci sono spiriti oltre lo Spirito Santo qui. Però vi voglio far vedere quello che succede. Noi molto spesso abbiamo questa cultura. Vai da qualcuno di speciale per parlare con chi è morto. Forse prima di conoscere Gesù, tutti quanti noi abbiamo... Impossibile rimanere seri in questo messaggio con questa cartomante che è entrata. Fa anche molto rumore. Forse quando non conoscevi Gesù, forse hai fatto anche tu queste pratiche. E le pratiche che si fanno per parlare con i morti sono le pratiche con le carte, giusto cartomante? Qualcosa accade, qualcosa resta. Possiamo parlare con i morti per conoscere il nostro futuro, per conoscere quello che c'è, per esempio come sarà il mio futuro tra 2 anni. Nonna, niente, non ci sarà un futuro. Un sei di cuori, ok. Bisnonno, avrò tanti soldi tra 2 anni? No, un 10 di cuore, avrò tanti soldi nel mio futuro. Ma tu mi senti? Nonno, nonna? No, 2 di picche, quindi niente, non mi senti. Signora maga, medium, come ti posso chiamare? Megera, non lo so come ti posso chiamare, non ho paura. Possiamo fare il gioco della monetina per vedere? Sì, possiamo farlo, vediamo. Wow, un asso, sì, possiamo farlo, vediamo. Noi parliamo con i morti per sapere un po' se sono vivi. Allora, se ci sei, vai a destra! Oh, c'è. Se sei con noi, vai ancora più a destra! Se pensi che l'uomo che ho sposato era l'uomo giusto, vai a sinistra! A destra. Aspetta, facciamo una domanda seria. Era questo il pastore giusto per la chiesa? Vai a destra. A sinistra. Chiaramente sono effetti speciali, ok? Non c'è nessuno spirito dietro, c'è lo spirito di Salvatore. Facciamo un applauso a questi pazzi. La nostra cultura è andare a leggere le carte, no? Posso vedere le mani di quanti hanno fatto una di queste pratiche, lettura di mani, sedute spiritiche, cartomanzia prima di conoscere Gesù? Tanti. E sono legami, sono maledizioni, sono spiriti che proclamano la loro vita su di noi e non la vita che Gesù vuole su di noi. Se stai facendo una di queste pratiche, sei qui, ti voglio dire che il Signore ha tutta l'intenzione di liberarti, perché Lui ti parla e Lui vuole parlarti. Sapete, Gesù non è un morto con cui parlare tramite qualcuno. Gesù ha intenzione di parlare a te. Non ha bisogno di un tramite, di un medium, di una medium, di una maga. Gesù vuole parlare a te. Gesù vuole darti una rivelazione di Lui assolutamente personale, vera, intima. Non ha bisogno di un tramite. Ha un tramite, Lui stesso, Gesù. E Lui vuole continuare a parlarti, Lui vuole continuare a guidarti, Lui vuole continuare ad equipaggiarti, Lui vuole continuare a farti sentire amato e Lui vuole continuare a mandarti. Dove? A quel paese. Sì, è il paese, lo sai tu e Lui. Ma Lui vuole continuare a mandarti. Amen? Il secondo esempio che voglio farvi è che quando muore qualcuno ci sono un sacco di dispute su chi prenderà l'eredità, vero? E quindi che cosa si fa? Se ci sono le liti tra i fratelli, c'è una casa, una macchina, una campagna, ci sono dei quadri, ci sono delle proprietà, cosa si fa? Si mette una terza persona di mezzo per leggere qualcosa che è il testamento. Cioè, noi prevediamo che il morto, prima di morire, abbia scritto un documento in cui ti lascia delle cose. Tutto chiaro? Sì? Quindi tu che fai? Vai da un notaio. Salve notaio. Grazie. E che cosa fai? Vai da un notaio che sembra serio, è vero? È vero, è serio. E ti fai avere tutte le cose che sono state promesse per te. Allora leggi che ti è stato dato una casa, una macchina, un quadro, delle cose d'oro, questa fa parte della mia collana, me l'hanno rubata, me la stanno ridando, dei soldi, questi sono soldi veri. Si danno da fare questi ragazzi, avete visto? Prima volta che vengo pagata sul palco, comunque. Una casa, magari anche una macchina, no, basta. Il notaio ha detto basta. Andiamo da un notaio per leggere insieme il testamento. Nel Testamento trovi delle cose scritte che sono per te. E noi molto spesso andiamo da Gesù morto per dire: Gesù, che cosa hai per me? Una guarigione? Sì, dai, grazie, notaio, che me la stai dando. Gesù, hai per piacere anche una benedizione finanziaria? Sì. Gesù, puoi provvedere anche a me e alla mia famiglia? Sì, perché il nostro Gesù è un Dio buono. Dio risponde ai tuoi bisogni. Dio risponde ai desideri del tuo cuore. Ma quando ci rapportiamo ad un morto, andiamo da lui solo per ricevere le cose. E per ricevere le cose che noi vogliamo. Ma quando ti rapporti a un Dio vivo, quello che hai in cambio non è solamente benedizione, guarigione, gioia, pace, ma è una relazione. È una vita eterna. Questo vuol dire che quanto potrai vivere a lungo? 150 anni, 170 anni? Beh, quello che Dio vuole darti non è solo una buona vita, quanto lunga sia qui, ma una vita eterna, con Lui, adorandolo, glorificando. Questo è il dono che Dio ha per te. Io sono venuto affinché chiunque crede in me non muoia, ma abbia vita eterna. Non solamente una vita bella qui, è una vita bella, è fatta di tutte queste cose. E sai, Dio ce le dà, Dio ce le dà, perché Dio è un Dio buono. Dio ha mai provveduto a te? Certo. Hai mai avuto una guarigione nel tuo corpo? Posso vedere le mani di chi sono stati guariti in mezzo a noi? Posso vedere le mani di chi ha ricevuto una guarigione proprio in termini finanziari, che Dio ha provveduto a te e alla tua famiglia? Splendido. A guarigione dell'anima, a qualcosa che gli psicologi non potevano fare. È una cosa grandiosa. È solo la minima parte di quello che Dio ha per noi. È solo la minima parte di quello che Dio ha per noi. Amen? L'ultima cosa che voglio farvi vedere è questo. Un altro metodo con cui noi ci rapportiamo ai morti è andarli a trovare. Quando ero cattolica, ero piccolina, nella mia famiglia si usava andare al cimitero ogni sabato pomeriggio. Cioè si andava, sai perché? Era una cosa importante, perché gli altri che poi vedevano la tomba non dovevano dire: e questi non sono venuti? I fiori vecchi, l'acqua sporca, è vero? C'è questa cultura, c'è questa cultura. E quindi noi andiamo, e che si fa al cimitero? Si guarda il morto, pulisci la lapide, cambi i fiori, prendi degli altri, li rimetti, togli l'erba. Poi che fai? Guardi. E non lo so come mai, ma rimani in silenzio. Non so perché mia nonna rimaneva sempre in silenzio. Io stavo lì a dire: ma che sta pensando questo? 2 minuti, 3 minuti, andiamo. Basta, non si parlava più della persona. È vero, no? Sono solo la mia famiglia. Cioè, io ho una famiglia strana, lo so, però voglio dire, che si fa con i morti? Si va al cimitero, si pulisce la lapide, si cambiano i fiori, ogni settimana, e guardate un po', noi buoni credenti, ogni settimana veniamo in chiesa, puliamo la lapide adorando, togliamo i fiori pregando con nostro fratello, guardiamo un attimo Gesù durante il messaggio e poi ce ne andiamo, senza dire niente. E la settimana dopo, di nuovo, andiamo al cimitero, andiamo al cimitero e puliamo la figurina, alziamo le mani, guardiamo il nostro fratello, guardiamo un po' Gesù e poi ce ne andiamo. E la nostra vita rimane la stessa, perché? Perché quello che è morto, non ha il potere di cambiarti. E tu vieni ogni settimana in chiesa a pulire un po' i fiori, a pulire un po' la lapide, a cambiare l'acqua, a mettere una candela nuova. Ma che vieni a fare se è così? Che perché? Cioè, vieni, sei sempre benvenuto qui, però se stai venendo per adorare un morto, non ti conviene. È tempo perso. Ogni volta che andavo al cimitero con mia nonna pensavo: ma perché sto qua? Ma perché sto qua? E io so che ci sono persone qui, forse ragazzi, mi sto riferendo in particolar modo agli upside down, mi sto riferendo in particolar modo ai figli dei credenti, che vengono qui perché tua madre ti dice che devi venire qui, e state venendo come me al cimitero ogni settimana. E dovete venire perché tua madre e tuo padre ti hanno detto che fino a 18 anni devi venire con me, dopo 18 anni sei libero, ok? E stai qui, E ti stai chiedendo, ma perché sono venuto? Ma quando è che la finisce? Ma perché? Ma io non voglio fare proprio niente di queste cose, ma non mi interessa. È perché stai vivendo con un morto. Forse sei qui e la tua vita assolutamente non cambia durante la settimana. Tu sei qui oggi, che ora è? Saranno le, non lo so, e domani mattina alle 9 sei esattamente uguale. E quindi sei venuto qui a cambiare l'acqua e i fiori, a cantare la canzone nuova, a dare un abbraccio al tuo fratello e a continuare a fare quello che sei. Questo è vivere una vita con un morto. Perché quando vivi una vita con un Gesù vivo, lui ti trasforma. E tu stasera alle 9:30, alle 10, alle 11 sei diverso. E non ti ricordi solamente che la canzone era bella. Non ti ricordi, non te ne vai a casa con l'ascella sudata perché hai saltato. Ma te ne vai e dici, ma sono entrato alle 19, che ero carico di peccati ed ero pesante e non sapevo bene cosa dovevo fare, ma le 10 stasera, lo so, domani mattina lo comincio a fare. E domani mattina ti svegli, vai a scuola e dici, mamma mia, Sara ieri mi ha detto che Gesù mi ha promesso lo Spirito Santo per predicare a questo mio amico che si sta facendo le canne nel bagno. E allora io vado e gli dico, senti, quello che stai facendo non ti fa bene, però io ho per te una soluzione che è stata per me una soluzione e te la voglio dare, si chiama Gesù. Ma sei scemo? Sì, sono scemo. Però sei più scemo tu che stai facendo una canna, te lo dico io, perché quella finisce, Gesù è per sempre. E poi vai al bar dove prendi il caffè con le tue amiche domani mattina e il cornetto finisce e tu gli dici, senti, questo cornetto è buono, sta facendo anche male per la dieta, ma non è per questo che sono qui per dirti, ma sono per dirti che se stai cercando qualcosa dolce ogni mattina, io ce l'ho. E senti, la possiamo leggere insieme, si chiama Bibbia, leggiamola insieme. Sai che noi ogni settimana, ogni 2 settimane ci incontriamo in una casa con altre persone che leggono insieme la Bibbia per stare bene, per cominciare a credere in un Dio potente. E domani mattina vai sul lavoro e un tuo collega si è fatto male. E dici, senti, posso pregare per te? Perché questo è quando viviamo con un Dio che è vero. Quando viviamo con un Dio che non fa le cose solamente scritte qui dentro, ma le può continuare a fare ogni giorno con noi, tramite noi, come Lui le ha fatte, più grandi. Ti piace? E allora voglio tornare alla domanda iniziale. Che stiamo a guardare? Perché stiamo ancora guardando verso il cielo? Perché stiamo ancora guardando questo Gesù che ci è stato tolto e che ci sarà ridato, uguale, Lui, potente, che stiamo guardando? Sapete, voglio concludere con un verso in Giovanni. Quando l'ho letto mi ha scioccato. Giovanni 21, verso 25. Giovanni alla fine del suo Vangelo dice questo. Or vi sono molte altre cose che Gesù ha fatte. Se si scrivessero una ad una, penso che il mondo stesso non potrebbe contenere i libri se se ne scriverebbero. Il mondo stesso non potrebbe contenere i libri di quello che Gesù ha fatto, ma di quello che Gesù continua a fare. Tu sei un libro in più su questo mondo di quello che Gesù sta facendo. La parola ci dice che noi siamo delle lettere aperte, dei libri per raccontare quello che Gesù è. Tu sei un pezzo della Bibbia, tu sei un pezzo vivo di quello che Gesù è. Tu. Incredibile. E noi stiamo ancora ad adorare un morto, stiamo ancora guardando verso il cielo, abbiamo dimenticato di andare di fretta per predicare l'Evangelo. Ma Gesù è vivo, questa è la verità, Chiesa. Questa è la verità. Stai avendo una relazione con un Gesù vivo? Stai avendo una relazione con un Gesù che è vero? Gesù è vivo. Amen? Non esiste cosa più bella. Gesù è vivo. Gesù è vivo. Gesù è vivente. Non ce ne dobbiamo ricordare solamente a Pasqua, ma oggi il nostro Dio è vivo. E oggi Lui ti sta chiedendo di andare e di fare discepoli di tutti i popoli. Chiesa, questa fase nuova della nostra Chiesa ha bisogno dello Spirito Santo, amen? Ha bisogno di questa vita soprannaturale, di essere guidati, di essere potenziati, di essere equipaggiati. Ha bisogno anche di persone che non stanno a guardare il cielo. Smettila di stare così. Beh, Gesù, quando è che vieni? Quando è che torni? Sto qui, andiamo, facciamo insieme. Gesù, non sento niente, sento niente, sorda, non sento. No, no, Gesù ti dice, leggi la Bibbia, guarda quanto amore io ho per te, guarda quanto amore io ho per ogni persona che tu conosci. Chiesa, questa nuova fase di Chiesa ha bisogno di persone che non continuano a guardare il cielo, ma che vanno. Sara, io non sono buona a niente, perché Pietro era fantastico, perché Giuda è stato favoloso. Ma Sara, ma tu non lo sai quanti problemi c'ho io. Perché Matteo non ce ne aveva di problemi. È vero? Gesù ha scelto te così come sei, per fare esattamente quello che lui vuole da te, non da solo, ma con lo Spirito Santo. Amen? Vogliamo alzarci in piedi? Credo che mai come oggi una canzone possa essere così profetica. E il Signore mi dava queste parole per la nostra Chiesa in questa nuova fase, e cioè il tempo dell'attesa è finito. Il tempo dell'attesa è finito. Chiesa, basta guardare. Sono tempi di risveglio. Sono tempi di cose nuove. Sono tempi di grandi cose che possono succedere. Sono tempi straordinari. Non farti distrarre da quello che sta accadendo. Dio vuole fare con te qualcosa che non ha mai fatto in questo mondo. Dio vuole farti vivere una fase che non ti ha mai fatto vivere. Dio vuole rivelarsi a te in maniera nuova, fresca, potente, vivente. I tempi dell'attesa sono finiti. Chiesa, la nostra promessa è una grande chiesa alla gloria di Dio, uno stadio pieno di giovani. Amen? Upside down, amen? Chiesa, una grande chiesa alla gloria di Dio. Amen? Sei pronto ad andare? Stai dicendo sì? Qualcuno di voi sì? Oh, come faccio? Non ti preoccupare, c'è lo Spirito Santo. Vai fino all'estremità della terra. Vai fino all'estremità della terra. Dio ti ha chiamato dal pianerottolo di casa fino all'estremità della terra. Dio ha chiamato questa chiesa dal pianerottolo di casa, in tutto il mar Mediterraneo, fino all'estremità della terra. Amen. Preghiamo un attimo. Grazie, Padre. Puoi prendere un attimo di tempo per pregare tu e Dio un attimo.